GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Formalizzato il prolungamento del contratto del CT Donadoni fino al 2010, la nazionale azzurra riabbraccia Capitan Cannavaro. Ieri operato a Vienna la caviglia infortunata è già rientrato nel ritiro austriaco di Baden. E magari Cannavaro potrebbe essere ancor più vicino alla squadra lunedì, giorno dell'esordio contro l'Olanda. È andata tutto bene, siamo contenti. Sono ancora un poco tutto... però è normale l'anestesia. Ringrazio l'UEFA, ringrazio il presidente Platini che mi ha dato questa possibilità comunque di stare con la squadra, di restare con la squadra. Vedremo se si potrà andare in panchina, più che altro per vivere l'esperienza. Intanto ieri attenzione concentrata sul Viola Gamberini, che ha preso il posto proprio del capitano nella rosa azzurra Euro 2008. Mi dispiace tantissimo per Fabio e parlo da amico, ma anche da italiano, da tifoso dell'Italia. Sarà un'assenza pesante. Lui è veramente uno delle colonne della squadra e il fatto che voglia rimanere qui con noi e starci vicino nel ritiro vuol dire che la sua importanza è sia in campo ma soprattutto anche fuori. Dal romanista De Rossi invece un pensiero sul futuro del club giallorosso dopo l'addio dell'ipotesi di acquisto da parte del magnate Soros. Io negli ultimi anni mi sono tolto di parecchie soddisfazioni con la Roma, me ne sarei potuto togliere qualcuna di più, ancora più grande. Se è successo questo lo devo ai sensi. Chiusa questa parentesi, spero che i Sensi continuino, sono sicuro che i Sensi continueranno a fare una grande Roma al passo con le altre squadre. Intanto l'UEFA ha deciso di escludere il Porto dalla prossima Champions League in seguito al caso di corruzione di arbitri nella stagione 2003-2004. Il club lusitano, già penalizzato di 6 punti nella Liga portoghese, si appellerà alla decisione. E ora i play-off di Serie B. All'Arena Garibaldi di Pisa, il Lecce di Papadopoulo subisce a lungo l'iniziativa dei toscani, ma poi trova il gol partita al 12° della ripresa con una bella conclusione da fuori area del bomber Tiribocchi. Inutili gli assalti dei nerazzurri fino al termine, il risultato non cambia ed i giallorossi ipotecano il passaggio alla finale. Nell'altra gara il Brescia si aggiudica il derby tutto lombardo con l'Albino Leffe, deciso da un imperioso colpo di testa a 5 minuti dal riposo di Caracciolo su cross del migliore in campo Zambelli. Le rondinelle giocano in superiorità numerica buona parte della gara per l'espulsione dell'attaccante bergamasco Cellini al 39° del primo tempo, ma non vanno oltre l'1-0 finale. Le gare di ritorno si giocheranno fra soli 3 giorni. Emilio Buttaro, GR24, Il Sole 24 Ore. Stasera a Siena si gioca a gara 2 della finale scudetto del basket tra i campioni in carica della Montepaschi, in vantaggio per 1-0 nella serie, e la Lottomatica Roma. Continua intanto la marcia degli azzurri della pallavolo verso i giochi di Pechino. Ieri nel torneo di Tokyo 3-0 all'Algeria. Domani la sfida con l'Iran. Il capitano azzurro Cisolla. Credo che dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre cose. Il pericolo più grosso è di sottovalutare l'avversario, scendere in campo deconcentrati e non dobbiamo rischiare di fare questo perché come sappiamo sono importanti le vittorie, i punti, tutto quanto e soprattutto anche la nostra crescita. In chiusura il tennis, dopo 7 anni un francese torna in semifinale sulla terra rossa parigina del Roland Garros. È Gael Monfils che ora affronterà lo svizzero Federer. Derby russo tra Safina e Kuznetsova nella seconda semifinale femminile, mentre nel doppio è arrivata in finale anche l'azzurra Francesca Schiavone. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.